Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, una mail arrivata in serata ieri. Gentile signor Garanzini, le chiedo se domani, in occasione della giornata della memoria, potrebbe dedicare qualche minuto al ricordo di una persona che ho scoperto solo di recente, Arpad Weiss, allenatore dell'Inter e del Bologna dei tempi d'oro. Un innovatore caduto nell'oblio, dal quale l'ha fatto uscire il bel libro di Matteo Marani, Dallo scudetto ad Auschwitz. Gentile Carboni, sono io che ringrazio lei per avermi ricordato quello che nel giorno della memoria è un piacere oltre che un dovere. Le leggo un breve brano iniziale del primo capitolo di questo libro di Matteo Marani, dal titolo per l'appunto Dallo scudetto ad Auschwitz, edito nel 2007 da Aliberti Editore. Una dedizione unica allo studio e una serie incredibile di risultati. È arrivato primo 3 volte, prodezza condivisa unicamente con lo juventino Carcano, ma Weiss lo ha fatto con squadre quasi sempre inferiori alla concorrenza. Com'è Arpad nella vita? Veste elegante, a modi garbati, letture importanti alle spalle che gli garantiscono un italiano ricco e forbito, che pure non è la sua lingua madre. Ha scritto un manuale che fa testo nel mondo del calcio e non solo da noi. Il corpo assomiglia al suo calcio, asciutto e funzionale. Forse nasconde una punta di vanità. Prima di rientrare a casa per mangiare la torta già pronta in tavola, Weiss si concede un ultimo pensiero. Oggi ha la testa altrove, è stranamente distratto. Il suo scrutare assomiglia più a un respiro che a una vera e propria meditazione. È un'esitazione, un attraversare spaventato la consistenza dell'aria. Nella freschezza della sera scorre qualcosa di pungente e di sinistro, qualcosa non colto finora. È un gelo che arriva di lontano. Non è l'estate che si annuncia, è piuttosto un nuovo inverno, dopo l'inverno che già gli pareva alle spalle. È il momento più bello della sua vita e dista appena 9 mesi dalla fuga dall'Italia, meno di 4 anni dall'inferno di Auschwitz, meno di 6 dalla fine di tutto. Weiss, che aveva vinto lo scudetto con l'Inter nel 1930, dopo aver scoperto e lanciato il giovane Peppino Meazza, ne vinse altri 2 alla guida del Bologna nel 1936 e nel 1937. Morì ad Auschwitz il 31 gennaio 1944. Le notizie di oggi, adesso e i commenti di ieri, cominciando da quelli seguiti alla sfida infinita del San Paolo tra Napoli e Inter. Il commento di Leonardo alla vittoria ai rigori. Sinceramente io l'ho vista una partita diciamo molto equilibrata. Io non l'ho visto, ho visto in certi momenti sicuramente Napoli con grandi giocatori che hanno cercato di vincere una partita, che giocavano in casa, visto il regolamento giocavano in casa, sicuramente questo è un grande vantaggio anche per rispingere in avanti e cercare di vincere fino alla fine. Però io sono molto felice di questa prestazione, felice di saper soffrire in pochi momenti. Sinceramente abbiamo avuto 2 occasioni nel primo tempo che se facciamo gol cambia la partita. Il gol è stato molto più vicino a noi nel primo tempo rispetto al Napoli. Detto questo, 2 squadre che secondo me hanno giocato molto bene, ma credo che sia una vittoria a rigori molto meritata. Molto meritata, non credo sia stato, anzi so che non è stato particolarmente concorde su questo punto l'allenatore del Napoli, Mazzarri, sentiamolo. Leonardo è un bravo ragazzo, lo stimo, ma credo che quando si affronta l'Inter, probabilmente gli allenatori dell'Inter tutte le volte vedono una partita diversa. Comunque basta contare le palle gol che ha fatto l'una e l'altra squadra, da soli vi rendete conto che avrebbe meritato ampiamente la vittoria. Se il mio secondo mi ha detto non la contate quasi le palle gol, le salvataggi sulla linea o vicino, è stato quasi un assedio dal secondo tempo in poi. Credo che sembrava una grande squadra contro una piccola squadra, non perplessi. Lasciamo perdere il termine perché lo userei un po' forte, meglio che non lo usi. Io dico anche il fuorigioco, se millimetricamente ci può essere, mi hanno detto, non lo so, sul gol annullato. Io credo che a volte ci sono delle situazioni contro il Napoli, ci può stare, non ci sta. Difficile dar torto a Mazzarri, al di là poi invece nella prima parte direi, invece poi la disamina degli episodi più o meno è quella consueta, ma per una volta, ripeto, per una volta mi sembra Mazzarri assai più obiettivo nella lettura del match che non l'allenatore avversario. In precedenza il Milan aveva eliminato la Sampdoria a domicilio a Marassi e leggo da un'agenzia battuta da poco che ci sono i tifosi sampdoriani in rivolta contro il capitano della Sampdoria, Palombo, reo tra virgolette, di aver abbracciato Cassano al termine della partita. La maggior parte dei tifosi non ha gradito il saluto definito plateale tra Cassano e il capitano della Samp, che sono rimasti amici anche dopo la rottura del fantasista barese con la società. Sentiamo i commenti a questa qualificazione del Milan alle semifinali, prima quello di Di Carlo, che parla anche di Pazzini. Per me Pazzini spero che rimanga per tanti anni qui a Genoa e ci faccia vincere tante partite, però poi lo sapete com'è, finché non arriva questo 31 qui meglio non parlarne, ma l'importante è che per adesso è nella Samp, perciò ce lo teniamo stretto. Stiamo parlando anche di un giocatore importante, è normale che un giocatore importante, le squadre importanti ci mettono anche sopra, è normale. Sì, certo, se davvero Pazzini dovesse prendere altre strade, comincerebbe a risultare un po' sorprendente l'impostazione della Sampdoria, che era partita a inizio stagione con una coppia formata da Pazzini e Cassano, e poi va bene, in un caso la situazione è precipitata per ragioni indipendenti dalle sue volontà, nell'altro caso però la sua volontà, sua di società ci sarebbe e tutto risolterebbe, probabilmente un po' difficile da capire fino in fondo da parte della tifoseria. Il commento di Allegri è a tutto tondo. Vincere qui non era facile, i ragazzi l'hanno fatto meritatamente, era importante andare avanti in Coppa Italia perché è una competizione a cui teniamo e quindi sono molto contento di quello che hanno fatto. Ma sicuramente è nelle sue caratteristiche, nelle sue qualità, oltre ad essere un grande giocatore si è subito inserito bene come Emanuelson, hanno fatto una buona partita pur essendo il primo giorno che stavano con i compagni. Credo che questi fischi siano più amore che odio per Cassano, visto che quello che ha dato alla Sampdoria ha dato tanto, la Sampdoria ha dato a Cassano tanto, ha dato la possibilità di poter ritornare a giocare in una delle squadre più importanti del mondo, e questo grazie alla Sampdoria. Ho deciso di tornare in Inghilterra, ha detto o avrebbe detto Mourinho, questo è riferito alla edizione online del Sun, il tabloid londinese. Non ho ancora deciso il mio futuro, voglio solo essere felice. Non ho preferenze tra Manchester United, Manchester City e Chelsea, voglio solo riscoprire la gioia di allenare. Non sto dicendo che la Premier è il campionato più spettacolare del mondo, ma certamente è il migliore per organizzazione, fair play e per l'enorme rispetto che esiste tra avversari. Da qui la sua compatibilità, evidentemente la sua affinità elettiva con il calcio inglese. Stiamo parlando sempre di Mourinho, mentre invece sono arrivati a sorpresa dall'Australia una serie di risultati che hanno qualificato alle finali, forse tranne la Clijsters, tutti i tennisti che non ci si aspettava, nel senso che dopo il forfè praticamente per ragioni atletiche, per ragioni sanitarie di Nadal di ieri, anche Federer stamane ha perso la semifinale da Djokovic in soli 3 set. La cinesina Li ha eliminato la Wozniacki, testa di serie numero 1, anche in questo caso in 3 set, mentre la belga Clijsters ha invece eliminato la Svonareva per 6-2, 6-3. Siamo vicini al primo intervallo della puntata di oggi e volevo riaprire e chiudere la temporalizzazione di questo 27 gennaio, di questo giorno della memoria, con una curiosità, una notazione che mi ha segnalato Dario Ricci dalla redazione e che trovo particolarmente interessante e significativa. Lo stadio di Empoli si chiama Castellani ed è intitolata a Carlo Castellani, che fu un centravanti dell'Empoli, nato nel 1909 che tuttora detiene il record di reti segnate con la maglia dell'Empoli, 61 gol in 145 presenze. Carlo Castellani, a cui ripeto è intitolato lo stadio di Empoli, morì nel 1944 nel campo di Mauthausen. Una breve vigilia di Juventus-Roma, che è l'ultimo quarto di finale per completare il tabellone. Una vigilia, dicevo, nelle parole di Del Neri. È un impegno importante, da stimolo sicuro, ed è chiaro che noi vogliamo onorare in pieno questa Coppa Italia, a prescindere da quello che poi sarà il futuro. Per il futuro si vede dopo la partita, non prima, insomma. Prima di giocare la Roma è una squadra molto importante, sta attraversando un momento di forma importante e noi vogliamo fare di tutto per poter passare il turno, questa è la nostra intenzione. Più tardi ascolteremo anche le intenzioni di Ranieri, che parlerà anche di società, ma dato che sulla società Roma ci sono sviluppi recenti, ecco al capezzale di A Tempo di Sport Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Buon pomeriggio. Allora, intanto l'appuntamento del giovedì è diventato un classico, oggi poi sarà duplicato con degli straordinari, anzi se volessi inferire ti potrei dire dei supplementari. Eviterei certe espressioni, anche se facendo riferimento al match di ieri sera devo dire che l'ho visto, l'ho assistito in presa diretta e come tutti gli altri tifosi napoletani poi ho applaudito la squadra che ha fatto quello che poteva, insomma. Certo, mi pare molto ha fatto e poi ogni tanto capita, anzi ai rigori a uno o all'altro capita, no, di dover perdere, quindi se non riesci a metterla dentro prima pur meritandolo a lungo poi finisce così. A Napoli ieri per Telefisco, no, per questa grande maratona che ieri ha impegnato tutto il Sole 24 Ore, per pura combinazione sei stato destinato a Napoli ieri sera ti è toccata questa unito l'utile al dilettevole, certo. Anche se di dilettevole avrei preferito avere anche la vittoria finale, certo, ma... mi rendo conto. Stasera faremo, dicevo, i supplementari su Studio 1, dove ci sarà per l'appunto il debutto di Marco Bellinazzo sul tema degli stadi sempre più pieni in Europa e sempre più vuoti in Italia. Invece l'aggiornamento qui adesso riguarda tre argomenti: la Roma, i diritti televisivi, perché c'è qualche turbolenza sulla materia, e un aggiornamento sul fair play e sull'accettazione del fair play da parte di Moratti, in particolare direi sulla base di quello che si è sentito in settimana. La Roma, a che punto è la trattativa? Beh, abbiamo letto su tutti i giornali di questi incontri newyorkesi tra Unicredit e questo consorzio americano guidato da Thomas Di Benedetto, che dovrebbe portare a un memorandum d'intesa e poi all'offerta vincolante. Il termine per l'offerta vincolante, per la verità, non solo degli inglesi ma anche delle altre cordate che si sono candidate, in particolare quelli degli Angelucci, potrà essere fatta la prossima settimana, il termine è il 31 gennaio, quindi io non escluderei a priori una cordata appunto diversa da quella americana al vertice della società in un prossimo futuro, anche perché la politica è già scesa in campo, certo, per mettere qualche paletto. L'offerta degli americani si sta delineando, ci sono anticipazioni dei quotidiani anche su una permanenza di Unicredit all'interno dell'azionariato, poi da diluire con aumenti di capitale. Quello che è di certo è che comunque chi entra nella Roma deve metterci dei soldi per ripianare il bilancio, non tantissimi visti i debiti ben più consistenti di altri club, ma comunque dei soldi vanno messi, e soprattutto i soldi vanno messi per quanto riguarda il progetto industriale. Vedremo. In ogni caso, tutti i tifosi della Roma si augurano che queste offerte non siano, diciamo così, velleitari come quelle di qualche tempo fa. Le agenzie hanno appena battuto la notizia che non so come chiamarlo, signore, imprenditore, broker, Vinicio Fioranelli, i tifosi della Roma in particolare. Signore sarebbe un po' approssimato per eccesso, ma insomma. Sanno a chi mi riferisco, cioè appunto colui che guidava la precedente cordata di imprenditori svizzeri e tedeschi che volevano acquisire la Roma, sono stati raggiunti appunto da ordinanze di custodia cautelare partite dalla Procura di Roma. Il reato contestato è quello di aggiotaggio, si è scoperto, ma questo voglio dire al di là di quelle che erano le sensazioni diffuse, che l'offerta non era poi così fondata e che appunto questi personaggi avrebbero giocato un po' sulla possibilità di acquisire la Roma per far salire il titolo e guadagnarci. Tra l'altro nel periodo di riferimento il titolo della Roma era aumentato del 124%, da 0,5 euro per azione fino a un massimo di 1,43, quindi la procura dovrà ora accertare se effettivamente Le persone indagate e raggiunte, ripeto, da una ordinanza di custodia cautelare hanno in qualche modo guadagnato e speculato sulle voci dell'acquisto della certo. Roma, non avendo fornito poi nessun tipo di garanzia bancaria come Unicredit aveva chiesto. Certo, Marco, altri due capitoli. Il primo riguarda una vertenza a proposito dei diritti televisivi. Beh, la questione, avevamo accennato a un aspetto di questa vertenza complessiva sui diritti TV, che era quello relativo alle richieste della Lega Pro, che è pronta ad agire per le vie legali per far rispettare la legge Melandri e chiedere alla Lega di Serie A quanto previsto dalla stessa, cioè il 6% dei diritti TV da destinare appunto a Serie B e Lega Pro, secondo una ripartizione equa che la Lega Pro ritiene non essere tale. Si parla di all'incirca 60 milioni. A questo aspetto, a questo problema, e direi probabilmente le due questioni sono collegate, c'è un rapporto di causa-effetto, si è aggiunta il mancato accordo, la mancata intesa sulla ripartizione di quella quota di diritti TV che vanno divisi tra i club in base ai bacini di utenza. Ora, sì. La legge Melandri prevede che una quota intorno al 25% dei complessivi diritti TV assegnati alle squadre di Serie A, quindi parliamo di una somma consistente di circa 200 milioni, deve essere ripartita in base al numero di tifosi, e fa riferimento a delle indagini demoscopiche che devono sancire quanti tifosi ha ciascuna squadra. Ora, già le indagini demoscopiche hanno una certa precarietà quando non sono fatte in maniera seria. Per di più, da queste dovrebbero dipendere bei soldi, e dunque è chiaro che si sta litigando in Lega. Soprattutto a protestare sono i club di fascia media, che vedrebbero ridursi gli introiti televisivi. Si è lamentato il Parma, si è lamentato il Catania. Si potrebbe arrivare addirittura a uno scenario per cui alla Juventus potrebbero andare 50 milioni, al Parma 500 mila euro, ma immagino che questa sia una boutade. In ogni caso ci sta discutendo ampiamente, e è chiaro che quel gruzzoletto destinato alla Serie B e alla Lega Pro potrebbe far comodo per placare un po' i dissidi interni alla Lega di Serie A. In tutto questo poi purtroppo c'è stato anche il fallimento di Dalia, che garantisce alla Lega A circa 30 milioni all'anno e 9 alla Lega di Serie B. Okay. Ha pagato soltanto una piccola quota di questa somma. In più ci sono circa 300.000 abbonati di circa 8 squadre poi di Serie A oltre alla Serie B, che a partire da febbraio potrebbero di fatto vedersi annullato il proprio abbonamento e non poter più vedere le partite delle proprie squadre. La Lega sta prendendo un po' in mano la situazione, si parla addirittura della possibilità che sia la Lega stessa, grazie a Telecom, che è socia di Dalia al 10%, possa in qualche modo acquisire il pacchetto e trasmetterlo, insomma cercare di recuperare i soldi attraverso la pubblicità. Anche qui è in itinere la questione e cercheremo di aggiornare appena si risolverà. Tanto inedita non è e destinata a concludersi brevemente nemmeno. Scricchiola il fair play, diciamo che insomma, qualche voce di presa di distanza si è cominciata a levare nei confronti del fair play in settimana e della visita di Platini in Italia, che ha ripassato i fondamentali dell'argomento. La voce più dissonante mi pare sia stata quella di Massimo Moratti, che riascolterei. Se voi non vedete che succede all'Inter, la Juve, vorrei dire che c'è qualche cosa di non giustissimo, insomma, questo ritmo di campionato così stretto, tante squadre, qualche cosa che poi alla fine obbliga, pur chiedendo alle squadre di non spendere, poi obbliga invece a fare investimenti che alcune volte non sono progettati e quindi come tali non sono buoni come gli investimenti progettati. Allora, ecco, qui è il problema più importante, cercare di mettere le squadre con un campionato più ridotto e che mette in condizione di non essere costantemente alla ricerca di nuovi giocatori. Ma lo so che questo contrasta sul fatto che in più si partecipa a quello che possa essere il discorso economico importante e così via, perfetto, va benissimo per tutti, però di per sé il campionato in questo momento è più per me, è troppo. Poi ci diranno che in Inghilterra fanno di più, ma difatti anche lì però hanno le squadre che hanno problemi economici spaventosi e devono costantemente correre a comprare i giocatori. Un minuto, Marco, per la sintetizzerei in questi termini. Moratti sì. Non ha torto, nel senso che chiaramente se i calendari sono così intasati, se bisogna avere rose ampie, bisogna competere su tanti fronti, bisogna spendere. Torto invece quando fa presagire qualche diciamo ripensamento sul prefinanziario, dato che Platini appena qualche giorno fa ha detto che è un processo irreversibile. È chiaro che se si fa un fatturato di 250 milioni o poco più, come ha fatto l'Inter nell'anno, anche diciamo nell'anno delle grandi vittorie, e poi si pagano 222 milioni di stipendi e 50 milioni di premi, dura, È chiaro che la situazione non può essere più sostenibile a lungo termine. Sintetico, siamo stati nei tempi, no? Assolutamente sì, direi assolutamente sì, pure più di quello che mi immaginavo. È certo che i numeri fanno impressione: 222 milioni di stipendio su 250 milioni di fatturato. A Napoli avrebbe detto alla faccia di bicarbonato, no? A grandi linee. Prendermi una piccola rivincita in chiusura, il bilancio del Napoli è assolutamente chiuso in positivo da 4 anni. Sì. Il Napoli fa un fatturato sui 100 milioni, quindi molto più basso, ma le spese sono più contenute. Cioè, crescono un po' i debiti, ma gli investimenti e la crescita della squadra meritano, come dire, un indebitamento da parte del club crescente, a fronte, ripeto, di un attivo che continua a essere saldo. Certo, se Lavezzi imparasse anche a mettere la schiena un po' più avanti mentre calcia e non restare col corpo all'indietro, i rigori sarebbe assolutamente Mazzari perfetto. Ci sta lavorando almeno schiena, così voglio sperare, alla schiena di Lavezzi. Molti ascoltatori sono stufi, riallacciandosi alla puntata di ieri, sono stufi di ascoltare l'aggettivo importante da parte degli allenatori, e uno di loro, di cui adesso non riesco più a rintracciare il nome, ma lo trovo, eccolo qua. Roberto dice: la parola importante tra Del Neri e Di Carlo l'ho sentita almeno 5 volte. Un altro, che è Marco da Riparta Cremasca, scrive: ma che ne pensa di bippare come le parolacce la parola importante? Prima o poi ci arriveremo, temo. Marco da Reggio Emilia invece molto spiritosamente, ma non solo spiritosamente, sono molto d'accordo con lui, scrive: d'accordissimo sulla descrizione della Premier League fatta da Mourinho, solo che i motivi per cui lui vorrebbe tornarci sono esattamente quelli per cui dovrebbe starne fuori. Allora vado a rileggermi che cosa ha detto Mourinho. Ha detto: voglio tornare in Premier League perché è il campionato migliore per fair play e per l'enorme rispetto che esiste tra avversari. Io mi complimento di cuore con Marco da Reggio Emilia. Qualcun altro invece, per esempio un ascoltatore di Varese, aveva scritto, adesso rintraccio un po' alla volta, aveva scritto che a sentire noi, eccolo qua, Massimo da Varese, a sentire voi sembra che l'Inter ieri sera abbia derubato il Napoli. Non mi sembra assolutamente che possa sembrare questo ascoltando noi. Dante invece da Busto Arsizio, dunque molto vicino a Varese, dice: l'Inter ieri sera non ha rubato nulla, ma mi sembra che per dei bei tratti sia stata presa a pallate. Ecco, era esattamente quello che volevamo dire. Il messaggio, anziché dallo studio centrale di Milano a Varese, la risposta è arrivata da più vicino, da Busto Arsizio in questo caso. Luciano invece ha chiamato da più lontano, ha chiamato da Palermo. Buongiorno. Buongiorno direttore. Dica. Io mi volevo ricollegare allo sciopero del mese scorso dei calciatori, che solo per motivi economici l'hanno fatto, ma è qualcosa di interessante per il pubblico. Dunque, mi basterebbe che lei ne parlasse 30 secondi al giorno. Vogliamo le moviole in campo. Non devono esserci più gli altri che devono gestire le partite. Ha trovato quello giusto. Ecco. Passerebbero 30 secondi. 30 secondi, guardi, li martelliamo tutti i giorni finché non lo faranno. Perché non è possibile che una squadra come il Palermo, come il Napoli, devono rimanerci ogni volta per le grandi squadre. Loro hanno già deciso che la finale in Coppa Italia sarà Roma-Milan. Ormai faranno di tutto per questo. Anche se dovranno dare qualche rigore resistente. Luciano, io mi domando come facciano le persone come lei a seguire ancora il calcio, nel senso che se il film l'avete già visto prima, se pensate che tutto sia marcio, che tutto sia corrotto, che tutto sia pilotato, ma cosa perdete tempo a seguire il calcio? E soprattutto cosa ha deciso ieri sera l'arbitro di Napoli che non fosse assolutamente condivisibile? Guarda, io ho visto la partita, ha commesso un errore difficilissimo da cogliere, però, che è quello sulla spinta che Cordoba dà a Maggio al limite dell'area del Napoli, al limite dell'area dell'Inter. È difficile perché Cordoba fa un movimento difensore esperto, per cui gli dà una spintarella coperta, non so come dire, no? No, non facile da cogliere, ma lo spinge effettivamente alle spalle. Maggio è caduto, sarebbe stata punizione dal limite, però, e non rigore perché erano fuori. gli è sfuggito questo particolare. Per il resto, il fuorigioco, per amaro che sia, però l'assistente l'ha azzeccato, perché c'erano pochi centimetri di fuorigioco, ma c'erano. E comunque, se cominciamo a pensare ai complotti per pochi centimetri, davvero è meglio che ci dedichiamo al curling, a parer mio. E quanto al mani di Lussio, la suggestione poteva anche essere quella, ma la suggestione, mentre invece la palla ha colpito nettamente la spalla, ma la parte interna della spalla di Lussio. E quindi, con tutto il dispiacere che può avere il tifoso del Napoli, mi pare che questa sia la lettura corretta degli episodi di ieri. Ammesso e assolutamente non concesso che una lettura corretta in una partita passi attraverso la lettura di pochi centimetri di episodi. I 30 secondi al giorno che leverebbero i dubbi di torno li deve cercare da qualche altra parte, non certamente da me. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. L'ho ascoltato, è stato precisissimo nell'intervenire sul caso Maggio. Però diciamo l'arbitro è stato un po' ineguo nel valutare il cartellino giallo nei confronti di Aronica un po' prima. Si è un po', diciamo, comportato con modi diversi. Volevo dire, al di là della sconfitta del Napoli, un Napoli così che non si vede da tanti anni, anzi io non l'ho mai visto perché ho 26 anni, quindi non avendo visto Maradona, non ho vissuto l'era Maradona. Dicevo, secondo lei cosa può servire, un innesto a centrocampo o un aiuto in attacco in questo momento? Credo una rosa di qualità un pochino più ampia, nel senso che il Napoli due o tre buoni ricambi, non eccelsi, ma buoni ricambi li ha. Però rispetto alla concorrenza, il Napoli, ricordava prima Marco Bellinazzo, che è una società molto ben guidata da un punto di vista economico-finanziario, perché in questi anni sta viaggiando con un bilancio in ordine, il che significa che non fa il passo più lungo della gamba. È ovvio che se ti comporti così, e tutti dovrebbero comportarsi così, non puoi permetterti di scialare sul mercato come fanno altri. Non scialando, è stato costretto in questi anni ad allestire una rosa che è ottima, eccellente, sui primi 11, diciamo 14 nomi. Oggi, con tutte le manifestazioni a cui si partecipa e con l'usura di un calcio sempre più dispendioso, sono pochi. I 14 più i ragazzini della primavera era la rosa ideale di, diciamo, pure 20 anni fa, da 20 anni fa all'indietro. Che non significa che il Napoli non abbia altri giocatori, però il salto di qualità si avverte quando ne entrano in scena altri. Ancora da Napoli, Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi consentito questo intervento. Mi permetta una valutazione di tipo morale, poi sottoposta al suo giudizio. Mi hanno colpito due cose. La prima, la dichiarazione di Cassano, che dopo aver passato quello che ha passato per problemi di indisciplina ha dichiarato che è passato al Milan, e se avesse saputo che passava al Milan il presidente Garrone l'avrebbe offeso prima. Ora viene anche premiato con la convocazione immediatamente in nazionale, io avrei aspettato. E la seconda è che Moratti, nonostante quello che ha vinto in tutti questi anni, quello che ha speso in tutti questi anni, continua a sentirsi costretto, in area di fair play ormai avviata e che non si ferma più, a comprare un giocatore spendendo altri milioni di euro, nonostante ci sia la possibilità di far giocare qualcuno che gioca meno o qualche giovane. Volendo fare un parallelo, se me lo consente, detto in napoletano, mi sembra proprio che alla vaga Pociuccio si perdono pezzo e sapone. Cioè qui veramente non si ha più nessun freno di nessun tipo. Dato che l'ha detta veloce e un po' stretta, la vogliamo provare a tradurre? A lavare la testa al ciuccio si perdono la pezza e il sapone. E forse anche l'acqua. E forse anche l'acqua. Grazie Massimo, un momento di buon umore, a un momento di buon umore con quell'accento io personalmente non rinuncio mai. Passiamo ad un altro accento, perché prima abbiamo sentito soltanto la vigilia di Del Neri e abbiamo sentito qualche, come hanno notato gli ascoltatori più attenti e ormai più sensibilizzati, a questo, all'inflazione di questo aggettivo importante, abbiamo contato, mi pare, un 3 importante in 28 secondi di servizio. Quello di Ranieri dura 50, vediamo se ce n'è anche qua, così, piccolo test. È una pretendente come noi, e al campionato e alla vittoria finale di Coppa Italia. Siamo le due squadre che ne hanno vinte di più, 9, per cui tutte e due cercheremo di andare avanti. Sappiamo che è difficile, che dura, però siamo pronti ad affrontare la Juventus. Alcune volte vengo criticato per il gioco, evidentemente chi mi critica non vede le altre partite, io che le vedo tutte. Noi siamo tra le migliori, e lo dico senza presunzione. Tempo fa noi abbiamo proprio diviso il settore. Trigoria, Campoverde, risultati, tifosi, dobbiamo rimontare. Le altre cose vengono gestite dalla famiglia Sensi, dalla banca, e non ci devono interessare. Senza cercare di sentire le ondate, le mareggiate, noi andiamo avanti per la nostra strada, perché non mi aspetto nulla, mi aspetto soltanto che c'è una partita importante e dobbiamo cercare di vincerla. Porca miseria, accidenti, è crollato sulla partita importante. Dunque, il servizio durava 50 secondi 8 decimi, stava facendo percorso netto, è arrivato al secondo numero 48 e cascato sull'importante. Vabbè, però insomma, uno su 50 secondi ci può anche stare. Quella di stasera è effettivamente una partita importante. Alex da Udine scrive una cosa che condivido in pieno. Scrive: Mazzarri, anche quando ha ragione, risulta sempre insopportabile, al contrario dei napoletani, che anche quando hanno torto risultano invece sempre simpaticissimi. Detto da un friulano mi fa ancora più piacere. Comunque è in piena sintonia con le mie corde. Michele Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie, Garanzini, noi abbiamo la stessa età. Io, se non sbaglio, lei è del 55-56. Magari, comunque vada avanti. Vado avanti. Mm. Allora, io sono un interista. Mm. Perfetto. Allora, io sento piangere, a prescindere, io voglio dare un consiglio ai napoletani: non andassero dietro a Mazzarri, che Mazzarri piange sempre. Mm. Chiuso la parentesi. Mm. Allora, lei si ricorda che per 20 anni, per 15 anni, non so da quando sta Moratti, praticamente lo deridevano tutti perché spendeva e non vinceva. Mm. Quindi, ora che spende e vince, lo vogliono deridere nello stesso tempo. Mm. Cioè, non pensa che è un controsenso? Cioè, ora vince l'Inter e sta antipatico a tutti. Lo so che squadra che vince diventa antipatica, però per 20 anni l'Inter non ha vinto niente, ma ha speso soldi. Cioè, mi spiegate voi il motivo perché tutta sta gente è invidiosa e gelosa dell'Inter? Non riesco a capirlo. Finirà il suo ciclo e arriverà il ciclo del Milan, dell'Inter, del Napoli. Poi voglio ricordare ai napoletani che nell'era Maradona, il ragazzo che aveva 26 anni, non l'ha visto, lei lo sa benissimo, meglio di me, un certo Alemão, non mi ricordo se era Alemão, con una monetina a Bergamo, si buttò giù e ebbe 3 punti e vinse lo scudetto al Napoli. Si buttò con la monetina, ci si butta col paracadute, Michele, non con le monetine. Grazie del suo, diciamo, pittoresco intervento. Speriamo che per oggi, speriamo di aver fatto il pieno per oggi, e andiamo a sentire come va sulle strade. Brutte notizie per l'Inter arrivano dai controlli effettuati su Stankovic, che è uscito ieri sera per infortunio, ha riportato uno stiramento al muscolo semimembranoso della coscia destra. La prognosi minima, ma minima, è di un mese, e non è finita lì, perché leggo che anche Cordova sarà indisponibile domenica a causa di una lussazione alla spalla destra. Per la verità, tutti e due i giocatori erano squalificati e sarebbero stati indisponibili comunque. Il problema è che l'indisponibilità di Stankovic arriverà almeno fino alla fine del mese di febbraio, e quella di Cordova è ancora esattamente da quantificare. Sentiamo che cosa ha trovato Nicola Filippone per questa giornata. Sembra ieri. 27 gennaio 1949. L'avventura del 27enne Gunnar Nordahl con la maglia del Milan inizia a San Siro contro la Pro Patria. Lo svedese, che era arrivato a Milano in treno solo un paio di giorni prima, partecipa con un gol al successo di misura dei rossoneri, che si impongono per 3-2. Da quel momento il pompiere, soprannome legato alla professione che Nordahl effettivamente esercitava in Svezia, non smetterà più di segnare, con un ritmo impressionante. In 8 stagioni al Milan realizzerà 210 reti in 257 gare di campionato, vincendo 5 volte la classifica dei cannonieri. quindi chiuderà la carriera alla Roma. Lo chiamavano il pompierone Gunnar Nordahl, e comunque nel primo dopoguerra, dopo la scomparsa del grande Torino, il Milan riuscì a mettere insieme il trio Grenoli, che era un mediano come Lidl, una mezzala di regia come Gunnar Gren, sia pure già un po' avanti con gli anni, e questo bestione di Nordahl, andò avanti per anni a dare spettacolo e a vincere, non sempre ma abbastanza spesso. Dunque scrive Stefano, molto, molto carino, scrive: ecco, dunque la monetina di Animao l'abbiamo sentita, la mogliana in campo l'hanno già detta, adesso aspettiamo il gol di Turone e poi per oggi siamo al completo. Un altro ascoltatore a nome Davide invita il centralino a disporre dei tornelli per gli interventi telefonici. Giuseppe ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo dire una cosa che non so se tanti hanno avuto modo di notare in questo periodo. Si parla di tutti gli infortuni, Milan, Inter, Juve, a Napoli. Ma hai avuto un infortunio? Cioè non si infortuna uno, a parte Grava mi sembra... Grava brutto, grave infatti. Però ma cioè, nel senso, ma non ne sento uno, o sbaglio? Non so, adesso così su due piedi, scommetterci non saprei, però sembra anche a me che da un punto di vista di gestione fisica, atletica, il Napoli sia quest'anno posso. Io non lo direi troppo forte, no? perché poi sa. Ci si mette molto poco poi ad attribuire, avete detto questo, è successo quell'altro, eccetera. Facciamo così, io non ho detto niente, però effettivamente ci sono stati due incidenti molto gravi, uno con Lucarelli, mi pare che si ruppe il crociato all'inizio proprio della stagione, anzi forse addirittura nel precampionato, grava per quel trauma, tra l'altro per un fallo commesso da lui, della scorsa partita, e però nella gestione ordinaria mi pare che incidenti, sì, un filo di turnover ogni tanto che può nascondere magari la piccola contrattura piuttosto che un piccolo acciacco, ma certamente da questo punto di vista non si può lamentare davvero, quindi probabilmente stanno lavorando bene da questo punto di vista. Vincenzo ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Pronto? Dica Ferrara. Buongiorno signor Garanzini, sono Vincenzo da Ferrara, l'ascolto sempre molto volentieri. Sì. Volevo dire, ma lei gli manca tanto Mourinho, mi dica la verità. Mourinho? Sì. Ma proprio un po' meno di zero, perché... Da Natale, da settembre arriva Natale, non iniziamo una giornata senza parlare di Mourinho. E in questo periodo come può ne riparla? Le manca, dica la verità. No, io sono personalmente sono felice che se ne sia andato. E più lontano l'Italia sta, meglio è, perché ci sono altri paesi che hanno molta più cultura sportiva del nostro, che possono permettersi anche di metabolizzare un Mourinho. La nostra ne ha talmente poca che come si è visto negli scorsi anni, dal punto di vista della cultura sportiva non se lo poteva permettere. La Spagna, che ripeto di cultura sportiva ne ha di più, sta in Spagna c'è una crisi di rigetto abbastanza evidente nei confronti non del tecnico inteso come valore, ma della persona. C'è una crisi di rigetto che parte all'interno del Real Madrid, quindi si figuri un pochino. Vincenzo da Ferrara era lei. Carlo da Roma, buongiorno. Pronto? Dica Carlo. Niente, volevo soltanto dire che Leonardo ieri sera nel post partita si è perso l'occasione di essere un po' più sportivo, però, perché non ha voluto ammettere alle domande dei giornalisti che insomma l'Inter tutto sommato doveva essere contento solo per il risultato ma non per il gioco, Io questa però non credo che sia, Carlo, sinceramente, non credo che sia mancanza di sportività questa, cioè è una visione un tantino parziale, ma insomma io credo che chiunque, a chiunque un po' di parzialità va concessa, no? Che siano allenatori o che siano giocatori, credo che il coinvolgimento in una partita sia tale che è difficile mantenere quel certo distacco, e questo riguarda un pochino tutti, riguarda gli allenatori signori e riguarda anche quelli un pochino meno signori. Poi sì, forse ha rafforzato un po' tanto il concetto, ha detto, non mi ricordo bene la frase testuale, ma era una cosa tipo che questa vittoria era molto meritata. Beh, insomma, magari quel molto era di troppo. Dal suo punto di vista era meritata, e mi sembra che fosse un punto di vista abbastanza legittimo. Da un punto di vista, come dire, neutrale, io penso che meritasse più il Napoli dell'Inter la qualificazione. Però da un punto di vista invece parziale, il Napoli è convinto che la meritava nettamente più dell'Inter, e l'Inter per parte sua è convinta che invece la meritava lei. Detto questo, ma noi che ci frega, nel senso che è chiaro che poi alla fine ognuno tira sempre un minimo di acqua al suo mulino, ma senza chiamare in causa, mi pare, la sportività per casi di questo genere. Non c'è più tempo, credo, per Maurizio da Pescara. Ci proviamo, 30 secondi. Maurizio, veloce. Sì, buongiorno. Senta, dica. Una cosa veloce. Sì. Volevo dire una cosa. Se secondo lei nella partita con il Parma c'è stato un brutto fallo di Candreva, se ce l'ha presente, quando è uscito dalla barriera e ha scalciato in malo modo Gomez. No. E non è stato preso alcun provvedimento, è stato veramente un brutto gesto. Poi fatalmente Candreva poi è stato determinante per il risultato della partita. Grazie a lei, Maurizio. Mi spiace, ma non le posso dare soddisfazione, perché non ho visto questo episodio. Grazie a lei, grazie a Roberto Scantritti in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio, Giornale Radio.